Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sforzo 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Credo che siano difeso molto bene, molto basso, una scelta del mister. E noi abbiamo cercato con le nostre armi provare per destra, per sinistra, per il mezzo, e portare avanti un risultato di vittoria. Il gol non è arrivato e questo si retrasa tutto alla settimana prossima, che vediamo per chi sarà importante questo risultato. Autista! Sposta quel bus! Sposta quel bus! Sposta quel bus! All in all it's just another brick in the wall. Loro dicevano due partite della loro vita e adesso la partita di loro vita e anche della nostra vita, perché anche per noi è molto importante, si gioca a Stamford Bridge. Dobbiamo vincere, è difficile, è molto difficile. Autista, sposta quel bus, sposta quel bus, sposta quel bus. La squadra inglese è arrivata a Madrid a bordo di uno dei tipici enormi autobus londinese a due piani, lo ha piazzato dentro il calderon, scrive con un sacco di rabbia il Mondo Deportivo. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Io sono qui per dire che invece il Chelsea ha fatto una grande partita al Calderon. E quelli che il calcio è una questione estetica sono pregati di farsi vivi. 800 24 00 24. Intanto io oggi qui ho un graditissimo ospite, Cristian Rocca, direttore di Il, cioè il mensile molto cool del Sole 24 Ore. Ciao Cristian. Ciao a tutti voi. Convocato in quanto direttore di Il, che mette il calcio in, a maggio in primo piano, in copertina e ovunque, nel, appunto il numero di maggio. Il calcio intelligente, io certe volte sono anche per il calcio ignorante, ma comunque non so, tu che sei stra-juventino e ti abbiamo convocato anche in questa veste. Pierluigi Pardo da Madrid, dove stasera racconterà ai telespettatori italiani la vera finale di questa Champions League. Atto primo, Real Madrid, Madrid capitale do mundo del pallone, contro Bayern Monaco. Ciao Pier, come Ciao, stai? Come va? Bene, tu? Molto bene. Sei molto carico? Bene. Sono carico, ieri sono andato a vedere Chievo-Sassuolo qui a Madrid, che sto scherzando, che lo dico con grande rispetto per il Chievo e il Sassuolo che stanno cercando di fare tutto il possibile per salvarsi. Ti licenzi. Ho già capito che oggi vuoi litigare. Ho già capito che oggi vuoi litigare con te. Non voglio litigare e sono dalla tua parte, cioè penso che alla fine, insomma, il nostro è il paese di Machiavelli, il fine giustifica il mezzo, quindi. È abbastanza normale che il Chelsea abbia giocato una partita così, aveva delle assenze anche pesanti come quella di Hazard, quella di Eto'o, che comunque è un giocatore abbastanza imprescindibile in questa squadra. Torres è quello che abbiamo visto ieri, con tutta la buona volontà, e quindi non prende mai ormai danni, e quindi va bene, insomma, cioè, Mourinho secondo me ha fatto il suo, ma anche Simeone ha fatto il suo, cioè ha fatto una partita senza volersi mai scoprire, costruendo qualche occasione un po' casuale, poteva fare qualcosa di più, probabilmente prendersi qualche rischio in più, però il 0-0 gli lascia, secondo me, discrete possibilità di passare il turno. Per cui, insomma, al di là dello spettacolo che non è stato veramente all'altezza, e ripeto, chiedo perdono ai tifosi di Chievo e Sassuolo, perché Chievo e Sassuolo sarà molto più divertente sabato scorso, sì, domenica scorsa, però sabato. Però, insomma, secondo me è stata, ci sta, il fine giustifica il mezzo e va bene così. Speriamo al ritorno a Londra di vedere una partita un po' più aperta. Io non credo, credo sarà la stessa partita. Finisce, no? Ma so come finisce perfettamente. Finisce 2-1 per il Chelsea con un gol a e io Mourinho in finale come avversario, fossi Guardiola, fossi Ancelotti, non vorrei mai nella vita, perché secondo me è una dei mal di testa peggiori in assoluto. Poi sono molto fiero di Luca che mi scrive che sono ridicolo, vabbè, e sto al calcio come una prostituta alla Bibbia, e io sono molto fiero di questo ruolo e lo rivendico. 800 24 0024 Maria Maddalena, Maria Maddalena, bravo Cristo. Non ci facciamo chiudere subito al Vaticano, ci terrei. Però ma, voglio dire, in generale è pieno anche di prostitute religiose, cioè non è detto che ci sia una correlazione. No, ma non al di là di questo, non per non cadere nella blasfemia. E Papa Francesco, chi siamo noi per giudicare? Quindi. Bravo, chi siamo noi per giudicare? Intanto molti si ribellano, no, io sono molto, sto aspettando con molta apprensione telefonate di oggi 800 24 0024, perché continuo a dire che il Chelsea ha fatto una grande partita. Ovviamente fioriscono tutti perché è l'anticalcio, è il catenaccio. Christian Rocca, cosa ne pensi? Ma intanto io vorrei dire che il Sassuolo gioca molto bene, gioca un calcio arioso, sì, 4-3-3, cioè, è vero. Fa dei tagli con Berardi meravigliosi. Salutiamo il presidente, ecco, è per questo lo dicevo. Ma dico di tutte le metafore che potevo usare, ma proprio il Sassuolo, capito? La radio di Confindustria, chiedo scusa, mi spargo il capo di cenere e non so che adesso, adesso arriva Mughini. Alla tigella. Arriva Mughini. Infatti sono altamente deluso, signor Pardo. Attento, signor Pardo. Stavo dicendo questo, che io sono convinto che Mourinho abbia fatto una straordinaria partita, come dicevi tu. Detto questo, però, per essere stata davvero straordinaria questa partita avrebbe dovuto fare qualcosina in più, perché la partita straordinaria è quella che Mourinho ha fatto in semifinale di Coppa dei Campioni di Champions League con l'Inter contro proprio il Chelsea, se vi ricordate, a Stamford Bridge, fece una partita di questo tipo con l'autobus, con il tram milanese nell'area di rigore, e poi però in contropiede fu formidabile. Secondo me quella è stata la partita più bella che abbia giocato aveva molta più qualità in quell'Inter rispetto a questo Chelsea, perché Sneijder, sappiamo bene, Sneijder, Milito, Eto'o, insomma, era un'altra qualità. Tra l'altro ieri a Mourinho mancava mezza squadra, perché Eto'o non è neanche partito, Hazard, che è il grande talento di questo Chelsea, pure non c'era, Ivanovic, che è molto importante, squalificato, e poi si fa male Cech, che stagione finita per lui, e poi si fa male anche John Terry, e poi Lampard non giocherà la partita di ritorno. Insomma, non aveva neanche una squadra numericamente all'altezza. Bene, state lì, 800 24 0024 per intervenire. Poi ovviamente maglietta di tutti i convocati, ormai non la danno neanche a me, l'ho chiesta, anche Fabio Gattore l'ha chiesta, non ce la danno, però ne diamo una a voi, al migliore in campo di oggi. Dopo 800 24 0024, traffico. Entra Schürrle e Schürrle segna, entra Dembabà e Dembabà segna, questo si chiama culo. No. Tutti convocati. Tutti convocati. Balotelli e cos'è Balotelli? 800 24 0024. Allora, problema, questione Courtois, qualcuno la ricorda via SMS? Allora, il portiere belga di proprietà del Chelsea in prestito all'Atletico Madrid, vi ricordate la storia dei 3 milioni per giocare ciascuna partita, eccetera? Bene, perché era prevista la clausola del contratto, lui ha detto che quella clausola non aveva valore, Courtois ha giocato, giocherà anche la partita di ritorno, secondo me l'anno prossimo torna al Chelsea e sarà titolare, scalzando Cech. Franco Piantenide dice di no, voi come la pensate? Ditemelo, 800 24 0024. Vi ricordo, molti chiedono, ma come si fa a venire a fare i convocati per un giorno, i commentatori da voi vincendo la maglietta autografata, eccetera, come si fa? Si fa che si manda un file MP3, cercate www.radio24.it, non è vero che non lo trovate, guardate bene che trovate il modo per partecipare, mandate un file MP3 della durata massima di 60 secondi, cioè tempi radiofonici, argomento della settimana, cosa manca alla Juventus per vincere, cosa serve alla Juventus per vincere anche in Europa. Ebbene, la giro a Cristian Rocca, direttore di IL, è qui con me, nostro ospite. Cosa manca alla Juventus? Partecipa al concorso, dai. Cosa manca? Manca la possibilità di cambiare modulo e di giocare contro le difese schierate che non non fanno respirare, diciamo, la, come diceva Bruno Pizzul, la manovra. Manca la possibilità di qualcuno che sostanzialmente di tornare al 4-3-3 che secondo me ha entusiasmato i tifosi della Juventus all'inizio dell'anno, all'inizio dell'avventura di Conte alla Juventus. Manca questa cosa qui, quel 3-5-2 formidabile che ha portato la Juve in questa situazione al probabile terzo scudetto consecutivo, è un po' sparagnino, consente di blindare la difesa e di vincere le partite anche con non soltanto un colpo di genio di uno dei suoi campioni, però ci sono dei momenti in cui magari non si riesce a superare questo doppio autobus, sì, di cui si parlava prima. Ecco, manca un'ala destra, manca questo. Manca un po' di cose, insomma. Invece io sono dell'idea che Pierluigi Pardo, se il Chelsea, questo Chelsea avesse quel Tevez che sta sulla copertina di Hill, potesse strapparlo da lì e metterlo al centro dell'attacco, allora avrebbe allora sarebbe ancora più un grattacapo per la grande favorita che uscirà dal doppio confronto di questa, che inizia stasera. Ma sicuramente, guarda, ieri riflettevamo in una di queste scene post partita proprio sul fatto che insomma, secondo me e anche secondo altri, alla Juve non manca molto per essere all'altezza, ad esempio, dell'Atletico Madrid. Cioè, è premesso che poi il campo ha sempre ragione, quindi poi alla fine, se la Juve è uscita anche meritatamente, anche se con molte sfortune, sicuramente, soprattutto per quel campo lì a Istanbul, che comunque alla fine, secondo me, è stato decisivo. Però detto questo, la Juve se l'è giocata male, non riapro il file. Però penso che sia, come livello tecnico, non lontana. Certo, ci mancano, Pierluigi, se posso interromperti, ci mancano Diego e Thiago per essere all'altezza. Sì, esatto, mica paglia, mica paglia. Fa abbastanza impressione vederli giocare così nell'Atletico Madrid. Però sì, ecco, insomma, la distanza tra Juve e Atletico Madrid secondo me è una distanza minima. La distanza tra Juve e Chelsea pure secondo me non è una distanza incolmabile. Mi sembra che in giro per l'Europa ci siano 3-4 squadre di livello completamente superiore, e questo Chelsea Atletico Madrid è una semifinale che nasce dalle imprese di queste due squadre, che fanno parte del gioco, insomma, imprese che queste due squadre da outsider, soprattutto l'Atletico Madrid, sono riuscite a fare e che la Juve invece non ha fatto. Io credo che l'eliminazione Champions League sia la prima, unica, vera delusione fino a questo momento di Conte in quasi 3 anni di Juve. Per il resto è andato sempre benissimo. Adesso ha la possibilità con l'Europa League di cancellare, secondo me, almeno in parte quella eliminazione. Se la dovesse vincere, secondo me, al di là dei discorsi di Mourinho, sarebbe una ricompensa con gli interessi. Se la Juve dovesse vincere l'Europa League, per me è una ricompensa. Ma anche secondo me, meglio vincere l'Europa League che uscire negli ottavi di Champions. Certamente, anche perché alla fine alzi un trofeo, è comunque un trofeo importante e l'abbiamo detto molte volte, ti dà una dimensione europea. E ti provoco, caro Christian Rocker, se alla Juventus mancasse un allenatore di livello europeo. Non rispondo a queste provocazioni. Io credo che Conte sia l'artefice unico di questa Juventus. Unico. Senza di lui, non dico che se avremmo ripetuto 3 anni fa il 7° posto dei 2 anni precedenti, ma probabilmente avremmo fatto anche un secondo, un terzo posto. Ma la Juventus di oggi esiste solo grazie a lui. Certo, una società che gli ha messo a disposizione dei calciatori, ma sostanzialmente lui continua a giocare ancora adesso con una difesa che è quella che aveva Del Neri, ha avuto la genialata di cambiare la sua stessa, come dire, convinzione di tattica, dal passare dal 4-2-4 al 4-3-3 al 3-5-2, quando ha capito che con i giocatori che aveva a disposizione, che gli erano stati messi a disposizione, parlo di Pirlo e Vidal principalmente, avrebbe fatto meglio a cambiare. E non molti allenatori secondo me hanno questa cioè lui passa per un talebano della tattica e invece lui entra. E io credo che la vera forza della Juventus, che in parte è simile a quella dell'Atletico Madrid con Simeone, è proprio questa capacità dell'allenatore di tenere tutti così stressati e così in modo agghiacciante, sì, direbbe su lui. Questo, Cristian, lo sai, io te lo dicevo. Agghiacciante. Sono d'accordo, No, ma d'accordo. Sai, tu sai perfettamente, Pier, come la penso, no? Lo dicevo prima anche a Cristian. Secondo me un modo di vivere come questo lo puoi sopportare per non più di 3 anni. Quindi io continuo a pensare che estremizzando, ma neanche troppo, continuo a pensare che sia Conte che la Juventus farebbero bene ad immaginare un futuro diverso, lontani uno dall'altra. Quindi io penso che o si cambia l'intera squadra come Conte avrebbe quasi intenzione di fare, eccetera, eccetera, oppure sarebbe meglio pensare ad un futuro diverso. Il problema è che, torno a ripetere, secondo me in questa rumba delle panchine a livello europeo, che mai visto una cosa del genere, tutte le grandi squadre cambieranno allenatore, salvo tre delle quattro che sono in gioco in questa semifinale di Champions. Ovviamente rimarranno Ancelotti, Guardiola e Mourinho, rimarranno sulle loro panchine, tutti gli altri cambiano. Ebbene, in questa rumba Conte farebbe bene a tuffarsi. Il problema è che ha una dimensione europea, conosce le lingue, conosce altre realtà, non le ha frequentate da giocatore, non le ha ancora frequentate da allenatore. Forse sarebbe per lui un salto nel buio. Lorenzo da Udine: cosa manca alla Juve per vincere in Europa? Scrive: gli arbitri italiani, caro Cristian Rocca. E questa la sai, questa non ti puoi sottrarre a questa battuta, che è la più scontata in assoluto. Andrea Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, due cose velocissime. La prima è, dunque, secondo me alla Juve manca velocità. Non so, io la vedo una squadra molto forte, una squadra compatta, però un po' lenta, cioè rispetto alle big europee, che quello io vedo favorevolmente, per esempio la vendita di Pogba per magari due giocatori, due ali molto forti, adesso si fanno i nomi di Nani, di Maria, ecco, gente del genere, per poter cambiare modulo ovviamente. E poi l'altra cosa, per quanto riguarda la partita di ieri del Chelsea, secondo me è esattamente il tipo di gioco che le italiane devono riprendere a fare, perché noi abbiamo, adesso per carità, anche una questione di giocatori, di soldi, quello che vogliamo, però forse abbiamo voluto un po' troppo imitare i moduli di altre squadre tipo Barcellona, Bayern. Invece noi siamo adatti a quel tipo di gioco lì. Ce l'abbiamo nel DNA. Ce l'abbiamo nel DNA, è un tipo di gioco che è poco spettacolare, ma è l'unico che a noi dà risultato, secondo me. Pier, poi non ci trovo niente di scandaloso in questo, Non si tratta di prostituzione intellettuale. Secondo me non è un fatto di, cioè le culture calcistiche negli anni si sono un po' tutte anacquate, perché si sono tutte contaminate. Cioè, questo discorso secondo me poteva valere negli anni 80. Oggi secondo me no. Oggi la Roma, per esempio, è una squadra che ha un calcio assolutamente diverso da quello, anche la stessa Juve, insomma, non è una squadra che gioca solo di ripartenze, anzi è una squadra che gioca con un'organizzazione perfetta, ma con grande qualità e con tipo di calcio alto, che è lo stesso che ha cercato di portare con alterni risultati Benitez quest'anno a Napoli. Io non credo che sia questo, io credo che ci sia un problema oggettivo di qualità. Cioè, alla fine, se tu guardi, certi giocatori noi non li possiamo prendere, i nostri top player sono tutti cercati dall'estero, è un dato di fatto oggettivo. Cioè, se vogliono Pogba, se vogliono Benatia, se vogliono Pjanic, non è che... è perché evidentemente oggi ci sono delle società che hanno una forza economica superiore alla nostra. Noi non abbiamo la possibilità di andare a prendere Cristiano Ronaldo, Bale, quindi poi a questo livello qui non ci arriviamo. Poi la Juve di quest'anno sicuramente ha sottoperformato, come direbbe, non so, Barisoni, gli esperti di borsa, ha fatto sottoperformato, vergognati, sottoperformato. No, nel senso che poi, un po' condizionato dagli eventi, non è riuscito a centrare una qualificazione che era ampiamente alla portata e che forse l'avrebbe condotta avanti, almeno fino ai quarti di finale. Quindi non siamo quelli di quest'anno. Il Napoli ha fatto un'ottima Champions League, ma aveva un girone complicatissima ed è uscita con una sana sfiga, perché quando fai 12 punti in 6 partite ed esci sei sfigato, secondo me non è così, capisco il discorso, l'umiltà, no, del ragionamento, e sicuramente, ma anche in nazionale noi non giochiamo più così da un po' di tempo, insomma. A proposito di nazionale, abbiamo ottenuto buoni risultati, e Prandelli che gli vuoi dire? A proposito di nazionale, su Il di questo mese, poi Cristian Rocca questa me la spiega, c'è una ipotesi, cioè un'idea anche, Conte alla guida della nazionale italiana. Abbiamo appena detto che non ha dimensione internazionale, almeno l'ho detto io. L'ho detto io, poi me la spieghi dopo la borsa. È venuto il momento che Antonio Conte dica la mia di questa cosa assurda che mi è capitata, di questa giustizia sportiva che, credetemi, lor signori, è agghiacciante. Tutti convocati. cuando pegues la vuelta, arrepentido estarás. Presiento, no quisiste olvidarlo. Allora, Cristian Rocca, io allegherei il CD di Daniel Ursini con quello che stai sentendo, con la musica che stai sentendo, a sostegno della convocazione di Carlitos Tevez in nazionale. Ti aspettiamo nel Bario se non convochi Tevez, canta Ursini. Ti piace Pierluigi? Mi piace molto. Saveglia, Saveglia, Carlito, ma allora, che t'ha fatto sto ragazzo? Io allegherei. Allora, sai come funziona con il 40... un po' di testata. No, ma infatti io allegherei a il 45 giri, lato A Ursini, lato B Pardo, Cristian Rocca. Sarebbe ottimo. Devo dire che, e qui lascio la direzione di Hill e parlo da tifoso juventino. Bravo, perché c'è un ascoltatore che ti invita a tirare fuori il cuore juventino e a inchiodarmi, perché io sarei morattiano, murignano e golpista. Secondo Cristo. Dio mio, che bello. Morattiano, Murignano e golpista. L'hai detto tu. No, lo dice Cristiano. Io non lo ripeto. Non mi potrai chiedere di ripeterlo. Ma no, volevo dire, da tifoso juventino, tutto sommato, che il fatto che non giochi e così sia pronto a settembre. No, dai. Sono abbastanza convinto. No, certo, ovviamente sarebbe, poi sai, per andarsi a intristire in panchina, perché comunque non è il titolare, cioè Higuain, Messi e non so chi altri sono, credo, più titolari di lui, no? Cioè, chi l'ha detto? Mettiamolo in discussione, cioè, voglio dire, mettiamolo in discussione, mettiamolo in ballo, facciamo un bel ballottaggio. Io credo che Tevez, se Tevez non è Messi, non è un giocatore baciato dal talento che tutto ciò che tocca diventa oro, diventa gol. È un giocatore che per funzionare deve essere funzionale alla squadra, al progetto tattico, tecnico e anche comportamentale, etico dell'allenatore. Per cui se un allenatore non lo vede, non lo vede, cioè non è ovvio che in una nazionale come quella, che ha grandissimi attaccanti, ci sta anche che non sia convocato. Allora, facciamo così, giriamo la considerazione, allarghiamo la considerazione all'autore di questo bellissimo servizio di Hill. Analizza Tevez, se ci riesci, il se ci riesci tra parentesi. Ed è il capo del mio partito calcistico, Michele Dalai. Eccomi. Eccolo. Allora, sei anche il mio unico votante, tra l'altro. Sì, ma io sto bene qui nella riserva indiana a prendermi del... Come era? Murignano, morattiano, golpista. Io sono così. Sì. Quello di prima cosa ho detto non me lo ricordo, ma cadiamo nella blasfemia. Quante cose belle tutte nella stessa frase, peraltro. Esatto. Io con Murigno, con le tute blu, con i ribelli, gli irregolari e contro i belli, bravi, puliti e pettinati del tiki-taka. Infatti ero goduto come una bestia ieri. E dico, il Chelsea ha fatto una partita meravigliosa. Ma io sono abbastanza d'accordo. Allora, il Chelsea, secondo me, guarda, essendo io del acceso dal tuo stesso entusiasmo, però non arrivo a dire una partita meravigliosa. Credo che abbia fatto Del mio partito, dai. No, ha fatto la partita che poteva fare, una partita perfetta. Quello che Mourinho credo non possa dire in questo momento, essendo uomo assai intelligente e astuto, è che la sua squadra è un po' le pezze, perché ha dei giocatori che fondamentalmente, un po' per l'età anagrafica e per una certa usura, un po' perché infortunati o in un momento della stagione difficile come Hazard e Willian, che hanno tirato la carretta molto bene, sono in difficoltà, in netta difficoltà. L'unico modo forse era veramente quello di parcheggiare un pullman, peraltro ben oliato, perché andava avanti e indietro perfettamente, quindi funzionava bene anche nello sterzo, però nella propria tre quarti. Questo poi viene mascherato da Catenaccio e tutte le altre bestialità che si possono dire su Mourinho. Sì. In realtà è la partita che potevano e dovevano fare. Esatto. E con un po' di fortuna. Sì, vedo però, Michele, che la frequentazione così assidua al salotto di Tiki Taka ti sta un po' imborghesendo, No. Pardo, lasciami stare da lei, non mi corrompere da lei, Non mi corrompere da lei. Siamo borghesi, c'è un'imitazione degli autogol che sono, tra l'altro, meravigliosi, di una figura di buffa, che praticamente mi dipingono come un appassionato solo di sesso e velocità, di conduzione. Sì. Quindi, dov'è la novità? Dov'è la mistificazione? siamo borghesi. Ti dico, la partita di ieri, io sono, questo sono con Dalai, cioè adesso la tua è una provocazione, sì. Non è stata una grande partita. Vabbè, ma è evidente, no? Assomigliava a Chievo-Livorno, come ho avuto modo di dire prima, no? Hai cambiato uno dei due. Sì, Chievo-Livorno, perché ci sono anche squadre come il Sassuolo che giocano con a parte le battute. Però è stata una bella dimostrazione di calcio muscolare, di calcio organizzato, di calcio tattico, questo sì. Poi, insomma, il Chelsea, ricordiamoci come arrivò in finale a Monaco di Baviera e come vinse quella finale qualche anno fa, insomma, ecco, delle prestazioni eroiche. Sì. contro il Barcellona. Vabbè, ma la partita ieri mi ha ricordato un po' l'andata di Porto Deportivo La Coruña 0-0. Però posso dirvi una cosa, se questa partita l'avesse fatta, anche perché la tua immagine è fortemente depauperata dopo la partecipazione a questo programma, lo sai. Sì, no, ma poi se vuoi io posso aprire il capitolo, perché secondo me Mourinho è il perfetto classico tradizionale allenatore della Juventus. Se vuoi posso aprire questo. Esatto, la mia grande crociata, ma comunque non c'è tempo perché avrei bisogno di alcune ore per spiegare questa. Ha ragione. No, ma sono d'accordo anche io. Però voglio dire questo: se questa partita non l'avesse fatta Mourinho, che ha, come dire, la cartellina con genio scritta su qualsiasi cosa faccia o dica, ma l'avesse fatta una squadra allenata, non so, da Ancelotti, allenata da qualsiasi altro allenatore preso a caso, non avresti tu o altri detto genio, partita perfetta, eccetera. Avremmo detto, al di là delle categorie, catenaccio, sì. Italia, eccetera, ma comunque avremmo detto che è una squadra, ecco, sembrava il Lecce di Cavasin. Io mi ricordo delle grandissime partite del Lecce, diciamo, di Cavasin, e giocava così. Cioè adesso non esageriamo, sì. Però perché appunto le giocava così contro il Vicenza di Mimmo Di Carlo, no? Contro l'Atletico di Diego. No, le giocava contro la Juventus di Lippi, quella che vinse il famoso meraviglioso 28esimo scudetto, quella di Capello, scusate, insomma, contro delle squadre molto forti, cioè non giocavano così, che era giù, perché le ragioni che diceva Michele sono esatte, cioè ovviamente la condizione della squadra e della contingenza l'hanno portato a fare questo. Però piano a dire capolavoro, perché il capolavoro è stato quello che ha fatto con l'Inter quando ha giocato col Chelsea a Stamford Bridge alcuni anni fa. Sì, però l'autobus a due piani ieri, onestamente, al di là di tutto, al di là degli scherzi, delle battute, delle forzature, la partita difensiva di Terry e di Cahill è stata onestamente qualcosa di altissimo, perché, livello, ragazzi. Sì, anche non avevano una copertura, devo dire che Ramirez mostra qualche segno di cedimento anche lui, soprattutto mostra una lucidità che si va spegnendo, forse, ecco, questi giocatori di tantissima corsa, anche buona tecnica, però a questo punto della stagione pagano un po', anche perché il povero Ramirez tiene il centrocampo da solo, più o meno, che lei è un mistero buffo del calcio moderno, cioè è un semovente che ogni tanto viene spostato per delle zone del campo, ma non ho ancora. Mourinho lo ama molto, quindi deve essere fortissimo, però io non ho capito. Cioè, tu non hai capito, te lo spiega Pardo. Intanto si è liberato oggi un'altra grande panchina, è quella del Sydney di Del Piero, perché il signor Frank Farina è stato esonerato, quindi signor Farina si aggiunge alla lista delle prestigiosissime panchine in ballo in questa che sarà l'estate dei mondiali, e quella degli allenatori. Ludovico da Brescia, grazie dell'attesa, dica. Sì, no, volevo dire che se Mourinho è un grandissimo, anzi il più grande allenatore, vorrei sapere Pallottini. Aspetti, non la sento bene. Dica se Mourinho, no, Se Mourinho, come lei l'ha definito, come l'ho definito, purtroppo non sento, mi dispiace. All'inizio avevo capito Mughinho, che era una crasi tra Mughini e Mourinho. Un amico di Pardo. Senti, ma dimmi Michele. No, una creatura spaventosa Mughinho, una cosa cosa di aberrante. No. È un incrocio, sarebbe divertente fare. Mamma mia. Pardo, ma stasera come va? Ancelotti contro Guardiola, questo è il massimo della vita, questa mette d'accordo tutti, come le lasagne, come la cacio e pepe, la partita di stasera. È la perfetta semifinale, prima di tutto. E poi ci sarà una finale con un underdog, come dicono gli inglesi, quindi con una squadra sfavorita, e questo renderà ancora più bella, secondo me. Perché appunto potrebbe accentuare questo senso di una squadra che attacca, l'altra che si difende. Secondo me questa chiave può rendere la finale ancora più bella. Mentre qua c'è Non Leggerlo, ci scrive che di fronte alle nostre la nostra condivisione dell'idea che Mo sarebbe stato perfetto per la Juve, da là deve andare nella stanza di Bottoni e sabotare tutto, ma questa è una teoria molto interessante. Secondo me Mourinho era perfetto per la Juve, e secondo me è piaciuto molto ai tifosi dell'Inter, ovviamente perché ha vinto, ci mancherebbe altro, ma anche perché ha tirato fuori delle istanze, delle corde psicologiche dei tifosi dell'Inter, che negli anni precedenti invece erano rimaste completamente libere e poco utilizzate. Mourinho ha capito tutto da questo punto di vista, e quindi secondo me è stato così amato dagli interisti, al di là dei risultati che ovviamente non sono un dettaglio. Ricordati che Sordi nel passato avete vinto uno scudetto in segreteria, sì, uno all'ultimo minuto, sì, e uno senza avversari. Spogliatoio di Bergamo contro l'Atalanta. Perché gli servite questi smash, per cortesia? No, aspettate tutti, abbiamo il traffico, state lì. Cristian Rocca qui con me, Michele Dalai in onda, oltre ovviamente a Pierluigi Pardo, mio compagno di banco ormai. Tutti convocati. Wait la, hey! C'è una macchia, vai, classe! Eccoci! Sì. Tiki Tac, Pierluigi Pardo, sì, grande puntata, tantissimi ospiti, come sempre, tanto calcio, sì, tanta cacciata, sì, tanto casino, ma soprattutto un sacco di sorca! E vai! Hey! Wait la! Qui con noi Elisabetta Canaris, in sostituzione di Venista Satta, sì, che proprio oggi ha sparato fuori il figlio. No, spartorito, si dice. Facciamo tanti auguri a Melissa, che tra l'altro ci dicono che forse non sia Boateng il padre. Non è vero. Chissà che non ci sia lo zampino di Mauri Di Cardi pure là. Stare, via, ma sono cose che piacciono queste a noi di Tiki Taka. Bardo, ma che dici? Ma sei impazzito. Ho dato mandato ai miei regali, no? Che sono bravissimi gli autogol, fra l'altro se poi Piantanita pesca anche Buffa, perché la cosa, sì, di Jonathan è una cosa che è al di là del bene e del male. Sì, sì, dopo il lo mischiamo. Jonathan è una delle cose che invito a cercare. Sono ragazzi bravi. Chi è caduto? Ah no, questa è una chiamata che ho sotto. Chi è? È la Satta? No, una roba sbagliata, uno dei fatti del giorno, la partita del cuore, con la defezione del Premier Renzi. Avendo giocato l'anno scorso, il problema molto prosaico è chi mettiamo sulla fascia, perché sì, l'anno scorso anno fece un lavoro. Pensa se segna, viene fuori un casino. No, c'era Michele Dalai che stava dicendo qualcosa. Questo tema, Mourinho perfetto per la Juve? Mourinho perché è piaciuto agli interessi? Sentiamo pensi che è trito e ritrito? Facciamo un seminario. Ok, il presidente Michele Dalai, che stasera, esatto, ovviamente con la bandiera del Real Madrid in mano a tifare contro Guardiola. Non, per Ancelotti, naturalmente, ma che discorsi, però soprattutto non c'è gara. Questo mi farebbe quasi antipatico, cioè a me Guardiola fondamentalmente non sta antipatico, sta distruggendo anche il Bayern Monaco, ma sono questioni che voglia vendere Mandzukic, sono queste cose che sono incomprensibili, però al di là di questo, Mourinho e la Juve stanno male proprio nella stessa frase, cioè suona male, è brutto da pronunciare. È vero che Mourinho sta bene in tutte le squadre vincenti, cioè è un vincente, quindi difficile. E quindi alla Juventus, Però io quello che voglio dire è che Mourinho ha tirato fuori dall'Inter dei suoi anni un lato muscolare, polemico, aggressivo, che l'Inter non aveva storicamente. In tutto e per tutto, no? Ha surrogato. Sì, no, tutto vero, Mourinho ha surrogato il presidente. No, ma sono contento che siete tutti d'accordo con me. Volevo dire, Michele, d'accordo con Rocca. Non sei d'accordo con Rocca perché? Ma così, perché è giusto. Per principio, cioè non c'è una ragione, sì, giustamente. Non c'è una, come lui, come la sua ragione, cioè non c'è una ragione. Ma lui oppone una logica indefettibile che non è logica, quindi... Comunque siamo tutti d'accordo sul fatto che Mourinho alla Juventus sarebbe perfetto, anche perché questo lato la Juventus ce l'ha già di suo, no? Quello antipatico, arrogante, che protesta per gli arbitri anche quando hai le decisioni arbitrarie a favore, cioè sono tutte quelle cose classiche. Ma io lo rivendico, cioè l'opposto del Beppe Severininismo imperante. Su questo siamo d'accordo. Posso dire però una cosa? Mourinho ha una cosa che manca un po' alla comunicazione della Juventus Football Club da tanto, cioè Mourinho è anche autoironico, ha una grande forma di ironia che tu invece declini in antipatia. Mourinho non è antipatico, è un provocatore di grande genio e talento, non posso dire lo stesso di Conte, ecco, farei fatica. Bah, non lo so, secondo me non lo so, Giovanni Mourinho ce lo siamo un po' dimenticato negli anni dell'Inter. Mourinho ha fatto delle cose, sì, sicuramente Mourinho è autoironico, su questo non ci sono dubbi, però ha fatto delle cose oggettivamente, cioè il gesto delle manette adesso direi tutto, insomma, fu un gesto clamoroso, cioè non era una velata contestazione al sistema arbitrale italiano, era proprio dire si è diventato un'icona, è finito sulle magliette, ha fatto delle cose, c'è ancora adesso, secondo me molto forti, sì, molto non, forti. Però Pier, vi ricordo che se no Conte non ha fatto, per dirti, poi sì, probabilmente Mourinho ha alternato nella sua, Mourinho forse ha più registi, ecco, su questo sono d'accordo, sì. Mourinho probabilmente rispetto a Conte ha più registri, nel senso che nelle sue apparizioni pubbliche anche alcune volte, appunto, l'autoironia, la battuta fenomenale del culo sull'ingresso di Dembabà dell'altro giorno, che magari Conte ha un po' di meno. Poi Conte in privato in realtà è una persona molto simpatica, da quello che mi risulta, però è chiaro che nella sua componente, nella sua maschera pubblica, è uno che sta lì e pensa soltanto al risultato e che raramente si apre a questo tipo di simpatia naturale. Quindi su questo posso essere d'accordo, Mourinho ha più registri, ma dal punto di vista dell'aggressività, secondo me frega pure Conte, nel senso che comunque ha fatto delle cose, cioè uno di averne di entrare, uno che arriva a Madrid ieri e dice parlo inglese, non parlo spagnolo, Guardiola ha parlato 5 lingue, questa è un po' la differenza, no? Di atteggiamento che c'è. Stavi dicendo, Michele? No, poi averne di Conte, di Mourinho, per carità, ma tutta la vita sono piccole scemenze che riguardano il carattere degli uomini, non la qualità degli allenatori. Averne anche di Guardiola, magari cambiasse modulo, però averne anche di Guardiola, ecco. Secondo te quindi era meglio il Bayern dell'anno scorso? Perché secondo me quella squadra diciamo pre di Guardiola è la squadra più forte che io abbia mai visto giocare, l'ho vista anche purtroppo per te. No, perché era una cosa, adesso oggettivamente anche questa gioca bene, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, anche questa, però la forza, la potenza, la capacità di sembrava una Juventus di Conte al meglio, però come dire 90 minuti su 90 in tutte le zone del campo, cioè una roba, io non ho mai visto una squadra così. Adesso vediamo se comunque Guardiola, perché la prova non era facile, cioè arrivare dopo Jupp Heynckes, che esonerato praticamente a gennaio gli ha lasciato in mano una squadra che ha vinto tutto, la prova non facile nemmeno per uno come Guardiola. Vediamo se riesce a fare meglio, mentre vi ricordo per inciso, a proposito di Mourinho, arbitri, uscite, esternazioni, Mourinho è andato fuori dopo la partita persa nello scorso weekend con il Sunderland, parlando di congiura galattica del sistema arbitrale inglese contro il Chelsea. Questo dunque, è un po' interista oggettivamente, più che juventino. No, ecco, invece sullo spagnolo, il problema è non parlo spagnolo. Sapete tutti che Mourinho non è stato trattato esattamente con i guanti dalla stampa spagnola dal giorno 1 al giorno ultimo della sua permanenza al Real Madrid. Credo che abbia anche qualche fastidio accumulato negli anni che lo spinge a comportarsi in quel modo. Poi, essendo un uomo molto intelligente, evidentemente sa di non esserne giusto quando fa una cosa del genere. Però, insomma, Fabio Firenze, buongiorno. Sì? Buongiorno. Ciao. Buongiorno, è un onore parlare con voi. Allora, volevo dire, io ho un metodo, secondo me, che la Juve, perché non vince in Europa, secondo me è l'unico metodo, è quello che dice Mourinho, culo. Gli manca solo culo alla Juventus, però secondo me manca qualcos'altro. Dopo, sì, un pochino ci vorrebbe, insomma. Sì. Poi mi vorrei togliere un sassolino che da qualche anno, del fatto del gol di Montari, che tutti diciamo ancora, che l'altra volta ci fu uno scandalo perché era il portiere della nazionale, il capitano, non doveva dire. Ma è un esempio semplice. È come se un difensore fa un fallo da rigore, l'arbitro non vede, e il difensore va dall'arbitro e gli dice: arbitro, fischia perché è da rigore. No? Sì. Io la penso così, ma l'ho sempre detto. Cioè, non sarebbe stato assurdo, ed è tuttora assurdo, chiedere a un portiere o a un giocatore di una squadra di intervenire al posto dell'arbitro, ma è molto semplice, l'ho sempre pensata così, ma anche Cristian Rocca ovviamente la pensa così. Michele Dalai non ne parliamo, non lo so. No, Buffon venne messo in croce dopo l'intervista e secondo me abbiamo perso tutti una grande occasione, nel senso che poi se Io sostengo che sia veramente una delle più grandi ipocrisie vedere quei giocatori a fine partita che anche di fronte a un'evidenza fanno finta che, ecco. Quella volta lì Buffon fu molto onesto, disse una cosa onesta secondo me, cioè che sincera. E venne crocefisso, disse, lo ricordiamo, che se anche l'avesse visto il pallone entrare non l'avrebbe mai detto. Ma no? Certamente. Posso capire che il tifoso avversario si possa arrabbiare di fronte a una cosa del genere, ma sinceramente, insomma. Tra l'altro, il giocatore nella posizione peggiore per capire se la palla fosse entrata o meno era proprio lui. Perché... Ma io poi ci credo che lui, insomma, lui ha tutti i diritti di non aver capito in quella azione velocissima, e ha tutti i diritti di dire: oh. Ma quando troviamo degli esempi e delle consuetudini per cui ci sono degli allenatori, dei difensori che appunto ammettono di aver fatto rigore, o dei portieri che dicono no, la palla è entrata, allora cominciamo a discutere. Ma il calcio è anche questo, e non si fa nella maniera più assoluta. Ragazzi, chiudiamo con un pronosticone per la partita di stasera. Io parto dal presidente Michele Dalai. Dica, presidente. Ma io non becco un pronostico dal 73, cioè da quando io sono nato. Io a 71. Secondo me è un buon pareggio. Ma con gol? Potrebbe, anche se, insisto, il rischio di Guardiola è che o ne fanno 8 o viene fuori una partita come quella di ieri sera, nonostante noi adesso stiamo aspettando quella di stasera per rifarci della noia. Vabbè. È pericolosissimo. Cristian Rocca al volo, e poi Pardo che la racconta. Io dico che supererà il turno il Bayern, perché è molto più forte, non ha certo Bale e Ronaldo che possono cambiare, ma passerà il turno il Bayern. Pardo? 2-1 Real. 2-1 Real, e chi passa? Non lo so, una cosa alla volta adesso. Mi ha chiesto questo, 2-1 Real. Va bene, allora torniamo domani sull'argomento. Poi ti faccio Inter Napoli, tutta una cosa alla volta. Grazie Pierluigi Pardo, Cristian Rocca, direttore di Il, Michele Dalai, presidente del mio partito anti-tiki-taka. Noi ovviamente abbiamo ancora un'ora per stare insieme, subito dopo il giornale radio. 800-24-0024 è il numero verde. La sensazione è che Cristiano Ronaldo ce la farà, così? Sta bene, si è allenato gli ultimi due giorni, ha recuperato molto bene. Facciamo un'ultima prova per essere sicuri che non possa avere problemi durante la partita, e dopo decidiamo. Ci sono gli argomenti per pensare di rendere quanto più possibile complicato il compito, il ruolo ai nostri avversari, che a questo punto diventano legittimamente i favoriti. All'Inter voglio fare la carriera, voglio continuare a imparare, a fare tutto quello che sto facendo quest'anno, anche l'anno prossimo, tutti quegli anni che rimango qua, sicuramente imparerò qualcosa. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Due ore da onesti e due per il malaffare, due ore da galli e mille da zanzare, due ore per l'inferno, due per cantare messa, per ritentare il gioco perduto la scommessa. Due ore insieme, momento radio promozione, questo due ore al giorno per tutti i convocati, questo ormai da un po', e per tutti i giorni a venire fino alla fine del mondo, sempre Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, e vi ricordo le ormai introvabili magliette di tutti i convocati, ne assegniamo una al giorno al migliore in campo tra gli ascoltatori, questo decidiamo noi, 800240024, ovviamente decidiamo il migliore in campo tra i vostri interventi. E poi la super maglietta autografata da ritirare qui, convocati voi opinionisti di calcio. Come si fa? Si fa che guardate sul sito radio24.it, scoprirete tutto, inviateci un file mp3 della durata massima di 60 secondi con un vostro commento sul fatto della settimana, sulla considerazione della settimana. Ebbene, il tema per questa settimana è: Juve che domina in Italia, cosa serve per vincere in Europa? Questo è il domandone, quindi siamo ansiosi di ascoltare i vostri commenti, fateceli pervenire. tranquilli, poi parlo anche di basket, poi parlo di tutto quello che volete. 800 24 0024 è il numero verde. Intanto voglio farvi sentire invece, voglio farvi sentire qualcosa prima di Antonello dalla provincia di Caserta che è già in linea. Voglio farvi sentire, vabbè, sapete che è un debole per Maurizio Icardi, ha parlato, finalmente sentiamo anche la sua voce, non è uno che parla spessissimo, preferisce fare dell'altro, ieri ha parlato, oggi ha parlato anche del suo futuro all'Inter. Resterà Icardi? È un domandone che si fanno in molti e in molte. Icardi, in passato hai dichiarato: se l'Inter mi caccia me ne vado, se no io rimarrei anche. Confermi? No, questo non lo confermo, perché io penso che una cosa che non ho detto mai, no, non sono riuscito mai a dire queste cose qua. All'Inter voglio fare la carriera, voglio continuare a imparare, a fare tutto quello che sto facendo quest'anno, anche l'anno prossimo, tutti quegli anni che rimango qua, sicuramente imparerò qualcosa. Se l'Atletico, il Real Madrid, come è uscito, mi vuole, quelle sono cose che devono sistemare altri, no? Meglio. Vuole restare e fare tutto, ma proprio tutto quello che sta facendo quest'anno. Speriamo di no, magari non proprio tutto. Icardi poi ha parlato anche, sempre a Sky, della sua esultanza contro Sampdoria, che tanto ha fatto discutere, e qui arriva Pinocchio. No, è rimasto male, no, perché sinceramente è una cosa che mi aspettavo, arrivare a Genova con i fischi e con tutto questo. Esultanza così, ti è venuta lì per lì in quel momento? Sì, vabbè, è stata una esultanza che in quel momento lì si vede in quella maniera, per una esultanza che faccio spesso, ogni volta che faccio gol faccio quella esultanza. Poi D'Ambrosio morbido per Palacio, Icardi è solo, il cross per lui, Icardi! Sampdoria 0, Inter 1! Tutte le volte si butta in mezzo ai tifosi con la mano a coppa sull'orecchio, si butta una faccia in mezzo ai tifosi che lo insultano, tutte le volte, credeteci. Allora, altro tema, Milan e De Sciglio che fa i capricci, se adesso anche, vabbè, è un bambino, un ragazzino, può fare i capricci, però da lì a dire, vabbè, se Real mi vuole io ci vado, aspetta un attimo, no? De Sciglio. Sicuramente fa molto piacere ricevere l'interesse da parte di squadre come Real Madrid. Io mi auguro di continuare a giocare in un Milan che torni ad essere sempre più competitivo come lo era negli anni passati, per tornare anche a vincere. Anche se comunque ormai nel calcio non si sa mai, e se il club dovesse decidere per questioni economiche di cedermi, valuterei comunque le offerte che arriverebbero. Siete capaci anche voi ovviamente di leggere tra le righe, quando uno dice così intende voglio andare al Real Madrid, che il Milan si muova e si sbrighi a cedermi, anche perché Seedorf non lo sopporto più, questo non lo dice, questo però lo sappiamo, lui è la pattuglia degli italiani. Seedorf, caso più unico che raro di un allenatore che più vince e più è in bilico, più vince e meno è il tempo a sua disposizione per continuare a guidare il Milan. Seedorf che se ne andrà, ma d'altra parte insomma il partito degli anti Seedorf si arricchisce della voce dell'ex della voce del portiere del Botafogo, ex compagno di Seedorf, che dal Brasile fa sapere nemmeno qui lo sopportavamo più, perché è uno che voleva cambiare tutto. Questo si chiama Jefferson. O Seedorf chegou aqui no Botafogo e revolucionou, né? Eu acho que pela postura dele, pelo profissionalismo dele, claro que a cobrança dele em certos momentos era muito forte, eu acho que ele quis... Ele se define como um chato, ele foi no redação e ele falou, eu sou um cara chato, ele é um cara chato. Não, mas é um cara chato pro bem, sabe? É um cara chato pro bem, ele... É que às vezes ele tentou mudar as coisas muito rápido, né? Eu acho que em 3-4 meses ele tentou mudar coisas que duraria talvez aí anos, né? Seedorf è un seccatore per bene, in 3-4 mesi voleva cambiare, gioca al Botafogo, è immutabile da 70 anni. Questo era Jefferson. 800 24 0024, torna agli ascoltatori. Antonello, provincia di Caserta, buongiorno. Buongiorno, convocatissimo. Ecco. Io una partita più brutta di ieri sera non l'ho mai vista. Cioè proprio la negazione del gioco, del bel gioco. troppo facile difendere sempre Mourinho, ma Mourinho ha capito un fondamento del calcio moderno, quella di apparire, parlare e fare poco rispetto allo sviluppo del bel calcio. E ogni tanto vincere qualcosina. Dopo l'Inter, dove ha vinto, sappiamo anche senza avversari, il Chelsea si è trovato in finale un gran botto di culo, e come dice lui, culo. Vabbè, allora, all'Inter, il Porto? Sì, quello forse sì. È stata l'apice di un campionato chiuso con una grande motivazione con i propri giocatori, ha vinto, però dopo non mi ha dimostrato di intendere il calcio come divertimento per noi che lo vediamo. L'unica cosa che è capace è farci divertire con le interviste, perché riesce sempre a distogliere l'attenzione su brutte prestazioni. Non so, Antonello, no? Secondo me gli interisti sono abbastanza divertiti con Mourinho. Cioè, secondo me quell'anno non aveva. Allora, al Porto l'apice, poi è andato all'Inter, triplete. Secondo me lì si sono discretamente divertiti gli interisti. Va al Madrid, dove gli fanno la forca, comunque il campionato lo vince. Prima dell'Inter, ovviamente, c'era il Chelsea, dove ha riportato il titolo dopo un miliardo di anni luce, in cui al Chelsea non si vinceva niente. Le opinioni sono belle proprio perché sono varie. Filippo Maria Ricci, ciao, dalla Spagna. Buon pomeriggio. L'ombelico del mondo, Barcellona. Sì. Ombelico del mondo, però no. Oggi sei sull'autobus a due piani o sei sceso? No, sono sceso. Sei sceso? Grande l'autobus, la parola è usata tre volte nelle prime due pagine di AS. Sì, se la sono presa... Sì, se la sono presa tanto. Questo è un altro aspetto che mi diverte abbastanza. Sì, cioè, gli spagnoli. Se la sono presa da morire. Se la sono presa da morire. Stanotte ho partecipato così a un dibattito radiofonico con Segurola, grande giornalista, nonché columnist della Gazzetta, nonché nemico giurato di Mourinho, che ha definito la partita una merda. Cioè, l'ha toccata piano, appena. Sì, così. Tanto poi vediamo chi va in finale di Champions League e alla fine vediamo anche chi la alza. Esatto, però qui il discorso che ti fanno è che così non vale. Cioè, a un certo punto una delle frasi più belle che ho detto, la UEFA si dovrebbe preoccupare. Sì. Ho sentito anche questo. Sì, la UEFA si dovrebbe preoccupare. Del gioco difensivo. Sì, certo. Come lo vedi? Lo vedo che io tifo sempre di più per il Chelsea in questo doppio confronto, proprio con la bandiera fuori. No. Allora, no, io c'è una cosa da dire. Io ieri ovviamente ho difeso il valore del licenziamento, no? Però possiamo dire una cosa, che il Chelsea non è l'Avellino, Didi Somma e Juari. È una squadra che spende centinaia di milioni, e si potrebbe pure pensare che potrebbe giocare un pochino meglio. Sì, però Phil, ieri non è che avesse tutti i giocatori per poter giocare meglio. Spende una barca di soldi anche molto male, in diverse occasioni. Sono problemi tuoi se li spendi male. Sì, però ho capito, poi ieri sera gli manca Hazard, di 41 anni. Sì, certo, manca Hazard, che è probabilmente il giocatore con maggiore talento che ha Mourinho in esposizione. Gli manca Eto'o, che è quel poco che resta davanti, perché Dembamba ieri era in panchina, Torres non segna da una vita. A proposito, soldi spesi, poi Torres ieri era l'ospite perfetto, non voleva mica dar fastidio, sicuro. Carlo, a parte tutto, qualcosa di più ci si può aspettare. Per me Mourinho ieri ha avuto paura, ma anche dall'Atletico, che l'Atletico è superiore, sì. E quindi si è chiuso e ha portato a casa lo 0-0, che va bene, però appunto è un atteggiamento da squadra molto piccola. Sì. Io solo su questo do un po' di ragione agli spagnoli, poi il resto si fanno delle pippe mentali esagerate. Certo, ma puoi anche vedere Caile e Terry che giocano una partita difensiva di quel tipo, con quella perfezione, secondo me è grande calcio. Non sarà bello dal punto di vista estetico, però è una prestazione agonistica, fisica, emotiva, di concentrazione di altissimo livello, quindi quello. Però ti dico, è una prestazione che magari ti aspetti, cioè per dire, l'Inter al Camp Nou 2010 è costretta a fare una partita del genere, perché se no il Barcellona gli passa sopra. Sì, sì. E questo Atletico ha per me è una buona squadra, però insomma non è quel Barcellona. E allora potevi aspettarti qualcosina di più, tutto lì. Sì, io ho un messaggio di Mauro da Treviso, da juventino, dico che il calcio è di Mu, è il calcio vero, la gente importa vincere, come diceva Giulio, il potere logora chi non ce l'ha. Senti, ma la UEFA dovrebbe preoccuparsi invece di un'altra cosa, cioè di questa sospensione della sanzione per il Barcellona. Allora dico, Barcellona, brutti cattivi, avete fatto dei magheggi con i cartelli dei ragazzini, vi sospendiamo, per farla breve, vi impediamo di fare mercato per 3 sessioni. Oggi, retromarcia, la FIFA sospende lo stop, il Barça può fare il mercato. Ma come? Però aspetta, sì. Lo sospende in attesa della sentenza. Che arriverà? Allora, qui la FIFA secondo me si è messa in un bel casino. Sì, sì. Perché sì, se la FIFA sospende effettivamente la sentenza, tutti si sentiranno legittimati a fare quello che gli pare, e quindi prendere un ragazzino di 11, 12 o 15 anni lo potranno fare. E se la FIFA punisce il Barça, ovviamente per me farebbe bene, perché sono delle regole, vanno rispettate, però probabilmente le devono rispettare tutti. E lì io ho qualche dubbio, perché secondo me non è solo il Barça che ha fatto questi magheggi, per usare la parola romana. Ma infatti anche Real Madrid dichiara apertamente, no? Meno plateali. Però, e quindi adesso non è che la sentenza è stata sospesa in maniera definitiva, in attesa di giudizio, come anche giusto, vuol dire, diciamo, è una libertà vigilata, sì. Mettiamola così, in attesa di giudizio, sì. Per me è corretto, quindi adesso però vediamo, perché anche cosa fa il Barcellona? Compra 10 giocatori e ne presta 5, perché magari poi nel 2015 non può fare il mercato? No, ma infatti è una situazione. Per me la FIFA si è messa in un ginepraio. Per me la sentenza deve rimanere. Vediamo se rimane. Però se non rimane, allora voglio dire, dopo crei un caso. Per cui, dopodiché, qualsiasi squadra italiana, spagnola, inglese fa come gli pare e dice: ma scusa, Barcellona li hai puniti, poi gli hai tolto la sanzione. Adesso non puoi più fare la voce grossa con me. Esatto. Non puoi più punirmi perché non ne hai. Quindi, secondo me la punizione resterà. Io dico questo. Buonasera, resterà, vediamo intanto il Barcellona dovrà cambiare allenatore. A proposito, il nome del giorno è? Valverde, sempre con Luis Enrique. Sì, Valverde con Luis Enrique. Cioè, uno dei due, ovviamente non insieme. Naturalmente. Soluzione piano A o piano B? Te lo immagino Luis Enrique reietto alla Roma, mandato via con più o meno infamia che Barcellona. È troppo integralista il vecchio Lucio. Non lo so, poi per me è complicato. L'allenatore arriva, ovviamente vuole fare mercato perché questo Barcellona ne ha bisogno, e poi sentiamo cosa dice la FIFA. Mentre di Klopp non si parla più? No, di Klopp no, ci sono una serie di nomi di olandesi, ovviamente. Van Gaal in prima fila. De Boer. No, beh, Van Gaal però magari andrà al Manchester. Vediamo, cioè, comunque è più facile che vada in Inghilterra. No, De Boer potrebbe essere. E poi vediamo, non si parla di Rudy Garcia, cioè si parla perché è un rimbalzo italiano, ma da qui ancora non c'è nulla e basta. C'è un Mourinho. Non fare così, dai, che ho già i miei problemi qua oggi. Per tornare a dove eravamo partiti. Sì, intanto stasera facciamo tutti tipo per Carletto, questo Sava Sandir, dura, novità dell'ultima ora, poi allora, ti saluto. Anche Bale non sta tanto bene, sì, infatti perché lo so. La febbre è una febbre poi stomacale, quindi poi bisogna vedere. Io dico che Cristiano fa fatica, perché non hanno tutta questa voglia di rischiarlo, secondo me. Anche giustamente. Per cui non lo so, vediamo, sono curioso. Sì. Hanno un po' sottovalutato questo infortunio di Cristiano e ora vanno di rincorsa. Eh sì, anche perché il ritorno è a strettissimo giro di posto, quindi non si possono neanche più fare i calcoli sulle due settimane. No. E Cristiano Ronaldo no. È. Cioè, puoi rischiarlo. Se magari te lo devi giocare, te lo devi giocare al ritorno. Al ritorno, fosse la seconda delle due, allora Cristiano Ronaldo gioca con mille punture e anche con le stampelle, questo è evidente. Sì. Grazie, Phil. Ti a ringrazio. Voi, ciao. Grazie, Filippo. Ciao. Maria Ricci dalla Spagna. Enzo, invece, da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, ascolto spesso la vostra trasmissione e mi sono accorto di essere praticamente in un covo di interessi, perché avete elogiato fino adesso Mourinho, è un fenomeno, e praticamente perché ha vinto il triplette, non per la partita di ieri, perché chiunque avesse giocato al calcio nella partita di ieri avrebbe messo 9 persone davanti alla difesa. Poi se lei mi viene a dire che Lampard è un fenomeno, che sono tutti bravi, sono d'accordo con lei. No, Lampard, io dico che non dico che sono tutti fenomeni, non so neanche se tutti avrebbero giocato quel tipo di partite e non so neanche con quali risultati, perché questo ovviamente non possiamo saperlo. La verità è che ieri il Chelsea ha fatto la partita che doveva fare, onestamente e seriamente ha fatto la partita che doveva fare, l'ha interpretata nel migliore dei modi quel tipo di partita. I due centrali sono stati i migliori in campo in senso assoluto e questo non è un covo di interisti. Poi Mourinho non va mai bene, allora se vince è perché c'è la grande squadra, un'altra volta vince, come diceva l'ascoltatore prima, perché non ci sono gli avversari, un'altra volta vince perché a culo. Meriti mai? Cioè, secondo me il grande merito di Mourinho è quello di lavorare sulla testa dei giocatori al punto da convincere, come ha fatto l'Inter, anche giocatori di alto livello, con contratti importanti eccetera eccetera, a giocare con la tuta blu addosso, non aver paura di sporcarsi le mani, giocare anche eventualmente partite di strenua difesa come ieri, e questi vanno lì, si sporcano le mani, si buttano nel fango, la giocano, la portano a casa e secondo me vanno in finale di Champions League. Raffaele da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ecco, volevo dire, premesso che sono un romanista, volevo però spezzare una lancia in favore di Mourinho. Io trovo che una partita di calcio sia una grande battaglia, dove nel rispetto delle regole vince chi è più bravo e chi fa un gol più dell'altro, quindi secondo me questo scandalizzarsi per il gioco difensivo io trovo che non ha molto senso. Mettersi 9 dietro la palla, se bastasse questo per vincere lo farebbero tutti, come fanno per esempio tante nostre squadre minori, provinciali, ma non vincono lo scudetto. Quindi io trovo che la partita di ieri sia stato comunque un grande scontro, una bella battaglia, certo, anche quella per calcio secondo me. Ma poi chi è più bravo vince rispettando le regole, ma anche secondo me, ma è quello che sto dicendo, cioè poi c'è modo e modo di interno. Per esempio lei è romanista, parla da Roma, la Roma quest'anno è dal punto di vista estetico, facciamo così, lo spettacolo migliore che c'è nel campionato italiano, no? Certo. Dal punto di vista estetico è evidente che io preferisco vedere giocare la Roma rispetto alla partita di ieri sera tra Atletico Madrid e Chelsea. Detto questo, ripeto, il Chelsea ha fatto la sua partita, ha fatto niente di più, niente di meno di quello che poteva fare al massimo possibile. Se vogliamo guardare dall'altra parte e magari estremizzare di nuovo, mi aspetto qualcosa di più dall'Atletico Madrid, che gioca in casa, che è sull'onda dell'entusiasmo, che recupera Diego Costa, e allora mi aspetto qualcosa di più da loro, che devono trovare il gol, devono cercare il gol. Il fatto di non avergli concesso nulla è un altro merito della partita del Chelsea di ieri sera, perché alla fine l'Atletico Madrid, nonostante tanto sbattersi, tanto possesso di palla, occasioni da gol non ne ha create, risulta. Quindi il dato è questo: 0-0 all'andata, si va a Stamford Bridge e io mi aspetto a Stamford Bridge una partita non così diversa rispetto a quella che abbiamo visto ieri sera. 800 24 00 24, io vi aspetto qui, abbiamo un'altra mezz'ora per stare insieme. Voglio parlare anche dell'Armani, che questa sera si gioca la sopravvivenza invece in Eurolega, si gioca le Final Four. Un sacco di ascoltatori mi hanno scritto l'altro giorno parlando con Livio Proli, presidente Armani, ho detto in questo momento, cioè in quel preciso momento storico, l'Armani in striscia positiva in Europa da un sacco di partite, non perde una vita nel campionato italiano, ho detto in questo momento l'Armani è la squadra più forte d'Europa. Ha perso quella dannata partita in casa con il Maccabi, che stasera affronterà di nuovo a Tel Aviv, e tutti a dirmi: ecco, tu hai detto la squadra più forte d'Europa e adesso come la mettiamo? Oggi non lo dici più. Ragazzi, c'è momento e momento, c'è situazione e situazione. Per l'Armani questa sera sarà durissima vincere a Tel Aviv. Torniamo con voi subito dopo la borsa per un'altra mezz'ora. Tutti convocati. siempre saca temas colaterales cuando lo sustancial, lo esencial de lo que ha hecho hoy ha sido una auténtica mierda. Pues eso, así no se puede. Un partido feo. No, como feo, indignante. E questo era il suscitato da Filippo Maria Ricci Segurola, che si è espresso come avete sentito sulla partita del Chelsea di ieri sera. Poi c'è chi mi invita a guardare le statistiche e i tiri in porta dell'Atletico prima di parlare. Va bene, allora mettiamoci a leggere il calcio con le statistiche in mano, a vedere quanti tiri in porta l'Atletico ha fatto, quanto ha fatto di possesso palla. Io guardo il risultato finale e noto che di tiri pericolosi verso la porta avversaria l'Atletico Madrid ne ha fatti pochissimi, forse quello di Gabi, unica parata di nonno Schwarzer, portiere australiano di 41 anni che ieri è entrato al posto di infortunato Cech, forse quella è stata l'unica parata, il colpo di testa di Diego Costa. Ma ditemi voi, voto in pagella a Cech? Beh, senza voto, ho giocato 18 minuti a Schwarzer, boh, 6 di così, di 6 e mezzo, facciamo 6 e mezzo perché ha fatto quella parata in una partita che si era già capito da un pezzo sarebbe finita con quel risultato. Quella di stasera invece voglio farvi sentire voci prepartita di Guardiola e di Ancelotti, con Ancelotti che abbiamo sentito anche prima Ricci dire che su Cristiano Ronaldo ci sono molti dubbi sulla presenza di Cristiano Ronaldo, oltre che su quella di Bale, probabile assente dell'ultimo minuto. Il grande assente di questa sera sarà con ogni probabilità CR7. Allora, Guardiola e Ancelotti. La sensazione che Cristiano Ronaldo ce la farà, è così? Sta bene, si è allenato gli ultimi due giorni, ha recuperato molto bene. Domani, prima della partita, facciamo un'ultima prova per essere sicuri che non possa avere problemi durante la partita e dopo decidiamo. Il Madrid sempre è il Madrid, con questo entrenador, con altri, con questi giocatori, sempre tiene algo special e sempre è un rival molto, molto forte per noi, è de los rivales. Individualmente como jugadores más difícil que teníamos en semifinales, no hay un equipo con una plantilla como la del Real Madrid. Respecto a lo Cristiano, ojalá pueda jugar, al final esto es un juego donde jugamos para la gente y la gente quiere ver a los mejores y uno de los mejores sin lugar a dudas es él. La sensazione è che comunque sarà un doppio confronto straordinario, perché questa è onestamente la finale. Queste sono le due squadre più forti d'Europa, lo diciamo da un pezzo, da tutta la stagione. C'è il vantaggio, insomma, che questa finale si giocherà in due tempi da 90 minuti. Onestamente, questo è secondo me un grande regalo del sorteggio, di quello strano sorteggio che è stato quest'anno adottato fino alla fine delle coppe europee, come sapete bene. 800 24 00 24, abbiamo qui una maglietta da segnare oggi. Paolo da Prato, buongiorno. Ciao a tutti. Ciao. Ragazzi, grazie, vi seguo tantissimo su Radio 24 in generale, poi questa trasmissione di calcio mi fa veramente piacere. Allora, io sono un confinato a Prato. Al confine, però tifosissimo della Roma. Sì. Il mio soprannome qui è Magico, tutto ti lascio immaginare. Non vedo l'ora che inizia la prossima Champions League. Sì. E volevo dire qualcosa a proposito della Roma, che credo che stia acquisendo, se si può dire, mm-hmm, anche credibilità a livello di società, di allenatore, di mentalità. La Roma, con un paio di acquisti giusti, quest'anno ci farà divertire anche in Coppa. Questo sì, è il messaggio. Attenzione, mio caro Magico, perché ho l'impressione che quest'estate, o che magari ci sia già la coda fuori dagli uffici romani di Sabatini, coda di emissari di qualche importante club europeo a chiedere notizie su Garcia. Esatto. Perché dice che rimane? Io non ne sono così convinto, ma anche perché, come è normale, Garcia potrebbe avere intenzione, voglia, desiderio di monetizzare la grandissima stagione che ha fatto, salendo sulla giostra, quest'anno mai così interessante, sulla giostra delle panchine europee, perché, caro Magico, sai meglio di me che ci sono un sacco di panchine importanti da occupare, e il nome di Garcia ad esempio è stato da qualcuno accostato a quella panchina su cui adesso siede Blanc, che però è a termine, secondo me, nonostante la ormai certa vittoria del campionato francese. la panchina del Paris Saint Germain, secondo me in estate è una di quelle che cambierà proprietario. Dunque, se dovessero arrivare delle offerte particolarmente importanti su quei fronti, non so la Roma se avrebbe la possibilità anche economica di trattenere il miglior allenatore del campionato italiano di questa stagione. Dunque è tutto da verificare. Io continuo a pensare che questa idea possa solleticare anche Conte, cioè l'idea di salire su quella gigantesca giostra europea. In questa chiave leggo quel balletto sotto traccia che è stato fatto la settimana scorsa. Vabbè, aspettiamo a rinnovarlo il contratto, poi vedremo, però non aspettiamo Conte fino all'ultimo, eccetera. Credo che potrebbe esserci legittimamente anche un pensiero di quel tipo anche in Conte oltre che in Garcia. Lo vedremo. Io tengo un draio, una bocca rossa con manace rasa, una pelle profumata e fronde rosa. Io tengo un draio, volevo offrirti pagando anche a rate, no brillante e quinne secarate. La cameriera, arriva sta pizza! Camarescia, io ho detto una pizza napoletana. C'hai fame, eh? C'ho fame, sì. Allora mangiate questo, sì. Allora, saluto e ringrazio Bruno Arrigoni, top manager dei nostri canestri. Quanti titoli hai vinto di miglior dirigente del basket italiano? Ne ho vinti due dalla Lega e uno dalla GIBA. Sì, perché non ti vogliono bene, ne meritavi di più. Sì, perché mi sono costati un sacco di soldi, soprattutto. Quest'anno non so se lo prende la Virtus Bologna. Ma mi sa che lo manco di poco. Lo manchi di poco. Lo manco di poco. Intanto Bruno Arrigoni, che ha portato nella nostra pallacanestro, vabbè, non sto a fare la lista dei giocatori, se non altro che due ore me ne servono 14 dei giocatori che ha portato da noi Bruno Arrigoni, che poi sono diventati delle superstar. Tra questi, Bruno, voglio che ci racconti questa storia perché è troppo divertente, quell'omone gigantesco che stasera proverà ad oscurare il canestro dell'Armani, cioè Sofocles Skorzanidis, passaporto greco, baby shack, come dice qualcuno, è appassionato di pizze. Ma com'è sta storia di Skorzanidis e la pizza? Quando era ragazzino giocava a Cantù, ma già pesava quanto? 150? Ma no, quando arrivò a Cantù era sicuramente molto grosso, voluminoso, ballava, insomma, sicuramente più di 130 kg lo era sicuramente. Ecco, poi non era in quelle condizioni in cui è venuto a essere dopo qualche anno, quando così era proprio preso da crisi di scoramento e quindi si rifugiava nel cibo, però allora era, diciamo, disordinato. Sì. Poi dopo non guidava, meno male, aveva 18 anni, e quindi noi avevamo una persona nella figura del mago Olivieri. Sì. Una figura storica della pallacanestro canturina oggi, che era dedicato a lui 24 ore su 24, andava a prendere, andava a portare, a mangiare qualsiasi cosa, la spesa, ecco, era un po' ingombrante in tutti i sensi, bisogna dire. Ci voleva il camion per portarlo in giro, Bruno. Ecco, no, beh, andavano in giro, questo aveva una macchinetta, ci entrava, insomma, a fatica, ma ci entrava. Ecco, il suo problema era che era molto disordinato dal punto di vista alimentare, era un ragazzo, veniva da un'esperienza non felicissima. Lui voleva lasciare la Grecia, perché allora c'era la regola che se uno aveva un contratto in ballo però riusciva ad uscire, dopo rimaneva libero. Per cui questa era l'accordo che noi avevamo trovato con la sua agenzia, e tramite l'abilità dello studio legale della sua agenzia andammo due volte in FIBA e riuscimmo ad averne assicurati i diritti per quella stagione. Ecco, fu una stagione, sì, lui insomma, è solo una stagione discreta, niente di più. Erano lui e Mike Bernard, il leone, sì, di Manchester, come viene chiamato, che si dividevano il posto e le pizze. E le pizze, come lui quel giorno non erano io, poi ieri mi è scappata la mano, perché attualmente si va sulle iperboli, sì, però quel giorno lì davvero lui se ne mangiò 8, se ne portò a casa 4, e naturalmente questa è rimasta negli annali del basket canturino. Se ne mangiate 8 e 4 se ne... dammi il take away che ho fame ancora, sì, prima, sì, di mangiare, faccio casa, se casomai mi venisse un languorino durante la notte, ecco, che invece la notte delle patatine gli era venuto il languorino, che erano le 2, le 3, solo che dopo il sonno aveva prevalso sul languorino, solo che le patate erano rimaste a friggere, e di lì viene fuori il disastro. Arrivò la Croce Rossa, perché lui abitava in un appartamento di Gino Gioffre, e praticamente era di fronte al loro appartamento, e lì prese fuoco tutto. Arrivò la Croce Rossa, provarono a portarlo giù con i barellieri, ma questi qui non ce la facevano, e allora intanto che c'erano i vigili del fuoco a tenere l'incendio, tirarono giù dal balcone con un paranco, perché per le scale non ci passava sulla barella, chiaramente, e non ci stava sulla barella. Bruno, vabbè che sono ragazzi, ma che pazienza che ci vuole con questi, eh. Beh, però insomma eravamo giovani, pieni di entusiasmo tutti quanti, ecco, e onestamente erano i tempi in cui ci andava bene tutto o quasi tutto, ci andava bene, pigliavamo tutto con grande filosofia, grande entusiasmo. Col tempo poi siamo diventati sofisticati. Sì, Bruno, senti, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico, poi voglio sentire cosa mi dici di, invece, oltre a Scorza Nidis, che sarà avversario stasera, quale partita ci aspettiamo dall'Armani, quale finale di stagione anche italiano ci possiamo aspettare per il nostro campionato. Strade. La cameriera, arriva sta pizza! Amarescia, io ho detto una pizza napoletana. C'hai fame, eh? Tutti convocati. Allora, Bruno Arrigoni, sai che si dice verba volant? Radio è mica vero, eh? Perché l'altro giorno, dopo che l'Armani ne aveva rifilati 30 a un trentello al Barcellona, facile, abbiamo avuto ospite Livio Prolio, ho detto: Presidente, in questo momento l'Armani ha la faccia della squadra più forte d'Europa. In questo momento. Adesso tutti a dire: ah, ma tu avevi detto che era la più forte d'Europa. Ah, ma adesso questi che sono i più forti d'Europa vanno a casa? Ma io sono sincero, anche dopo la prima sfortunata partita che Milano aveva già vinto, messo in tasca, e che è scappata fuori dalla tasca in virtù di non so quale robe strane astrali, ecco, io ero uno di quelli, dopo la seconda partita, io ero uno sicuro che Milano, e sono ancora sicuro che Milano possa tornare a Milano a giocarsi la quinta. Io all'inizio ero anche convinto che avrei potuto portarsi a casa tutte e due e chiuderla lì, fuori casa, e invece però io ancora sono convinto che Milano ha tutta la potenzialità per poter tornare a Milano a giocarsi la quinta, e quindi farla fuori con il suo fattore campo a disposizione. Però onestamente adesso hanno perso una partita fuori casa, che non è niente, perché uno ha perso fuori casa, è una roba che ci sta, solo che loro hanno perso, sì, però, a questo Bruno, punto spiega, la prima partita in casa persa pesa in una maniera abnorme. Assolutamente, quello è stato il peccato originale, però spiega un po' a loro, signori, cosa vuol dire giocare a Tel Aviv in quel palazzetto. Tel Aviv è veramente difficile, perché l'atmosfera, la pressione è veramente è grande, perché lì non è solo questione di tifo, di cori, ma proprio si capisce che lì c'è proprio un'aura intorno che trascina la squadra. Io la prima volta che sono andato a Tel Aviv, sono andato nel 1973 con la Inis, e c'era la guerra del Sinai, e c'erano tutte le barelle con i soldati feriti, e il loro presidente, Belsai, era un giovane ufficiale, era lì in divisa, entravamo in albergo e usciva Moshe Dayan con la benda sull'occhio, e insomma c'è un clima veramente particolare. Non è solo questione di tifo, si capisce che è tutta una nazione che gli va dietro. e giocare lì è affascinante, però è anche estremamente difficile. Difficilissimo. Senti, per chiudere, Bruno, campionato italiano come la mettiamo? Allora, la Virtus riesce a fare i playoff? La tua Virtus, no, punto primo, non ce la fa. Per i playoff mi sembra anche, così alla luce dei risultati, tutto sommato mi sembra anche giusto, anche perché insomma uno per andare ai playoff deve anche vincere le partite. Noi ne abbiamo perse tante, troppe in maniera inopinata, per cui stiamo fuori e ci leccheremo le nostre ferite. C'è un bel gruppone, dico la verità che nel momento in cui noi abbiamo perso io l'ho data un po' su, nel senso che non sono stato lì a fare più conti della serva per vedere chi va e chi non va. A questo punto vadi come vadi, ecco, come vadi diceva come il poeta. Vadi. Certamente, e finisci in maniera scontata con l'Armani campione d'Italia, secondo te? Sì, secondo me sì, perché per quanto io voglio dire... Le squadre trabocchetto che possono essere Siena, che peraltro ha fatto un campionato strepitoso, con un impianto tecnico, questo grazie a Marco Crespi, assolutamente di primo livello. Però anche le squadre più forti sono squadre che sono estremamente pericolose in una partita secca, ma in una serie lunga io credo che poi dopo i valori alla fine sono d'accordo. C'è chi mi scrive: è peggio giocare al Pianella che a Tel Aviv, e Arrigoni lo sa bene, questo lo scrive un ascoltatore mentre io ti saluto. Grazie Bruno. Ciao Bruno Arrigoni. Marco Bologna, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie. Niente, io volevo spezzare una lanza, premetto, non sono né interista e mi sta pure antipatico Mourinho. Sì. Però ragazzi, come si fa a criticarlo? Questo ha vinto dappertutto, ha vinto tutto. Più di così che cosa deve fare? Più di così cosa deve fare? Qualcuno dirà del gioco, deve continuare a vincere ovviamente. Però adesso io voglio dire una cosa: è in semifinale di Champions League con buone possibilità di andare in finale, con una squadra buona, ottima, diciamo un'ottima squadra, ma se la andiamo a vedere non è poi così superiore a una Juventus. No, non lo è, secondo me non lo è. A mio parere, poi io non sono un intenditore, nemmeno a mio parere, non lo è. Cioè, quindi raccontiamo che Conte è un super allenatore, lo vogliamo mettere in tutte le grandi panchine d'Europa, e ha fatto una figuretta fino adesso, eppure, in Europa. Eppure paradossalmente questa rischia di essere la stagione in cui Mourinho non vince niente, perché è molto difficile possa insomma alzare la Champions League. In campionato a quanto pare il campionato se lo piglierà il Liverpool, e dopo la sconfitta dello scorso weekend, dopo la quale Mourinho ha dato i numeri contro il sistema arbitrale inglese, ebbene il Chelsea è praticamente uscito dal giro, no? O comunque ha visto ridursi drasticamente le sue possibilità di vittoria nella Premier League. Dunque paradossalmente questa rischia di essere la prima stagione di perdente di Mourinho dopo un sacco di tempo. Adesso vediamo come va a finire questo sulla carta, poi vediamo come va a finire sul campo. Grazie Marco. Alberto, provincia di Siena, dica, buongiorno. Sì, buongiorno signor Genta, grazie per avermi richiamato. Volevo dire due cose: una, anche io mi associavo in difesa di Mourinho, perché ieri sembra che a me abbia giocato una grande partita con giocatori che aveva, cioè aveva una grande difesa, un buon centrocampo e niente attacco. Un Torres pesante che ha lavorato discretamente, ma insomma in gol non ci poteva andare mai, sinceramente. Non è pericoloso, non fa paura agli avversari, non segna da molto tempo, è un attaccante. Ha giocato bene Fernando Torres, però il metro in cui misuri l'attaccante al gol ieri non aveva... No, ma poi anche la velocità, mi sembra uno pesare rispetto a 2-3 anni fa che sia raddoppiato di peso. Assolutamente, assolutamente così. E poi, per cui, quello ha fatto tanto col poco che aveva, perché ieri aveva a disposizione una squadra fortissima in difesa, ma insomma tutto lì. Sì, no, e quello poi, che sto dicendo, ma poi cosa... sai, il calcio, molti la guardano come, a parte le antipatie personali, e io sono convinto che molti di quelli che scrivono i messaggi, che telefonano, che si arrabbiano come le bestie, il calcio è fatto anche di antipatie personali, Mourinho sta antipatico a molti, quindi credo ci sia una componente anche di questo tipo. Poi ci sono gli esteti, cioè quelli che dicono a pallone si gioca solo in un modo, mentre gli altri, le altre maniere di giocare a calcio, come ha fatto ieri il Chelsea, sono da vietare ai minori. Io non la penso così. Voleva aggiungere qualcosa, Alberto? Una cosa sola, sì. Brevemente. Un'opinione mia è che senza ali non parti. Cioè senza ali non parti. Non c'è spettacolo senza ali. Ieri in campo non c'erano ali e non c'è stato spettacolo. Sì. Gioco monotono, concentrato su una battaglia a centrocampo. E casomai chi doveva fare di più era... Era l'Atletico. Bravo Simeone. Era l'Atletico che insomma ha fatto una stagione, vabbè, per la quale mancano gli aggettivi e resta solo da scrivere il finale. Detto questo, lei ha ragione, senza ali no parti. Da questo punto di vista il Chelsea, ecco, la forza del Chelsea sta in due terzini che normalmente spingono non poco, Cole e William, che mi sembrano, ieri ha giocato una partita onestamente quasi esclusivamente di difesa. Allora, il miglior ascoltatore di oggi sarà Paolo da Prato, buongiorno. Ciao a tutti. Ciao. Ragazzi, grazie, vi seguo tantissimo su Radio 24 in generale, poi questa trasmissione di calcio mi fa veramente piacere. Allora, io sono un confinato a Prato, al confine, però tifosissimo della Roma, sì. Il mio soprannome qui è Magico, tutto ti lascio immaginare. Non vedo l'ora che inizia la prossima Champions League, sì. E volevo dire qualcosa a proposito della Roma, che credo che stia acquisendo, se si può dire, mm-hmm, anche credibilità a livello di società, di allenatore, di mentalità. La Roma con un paio di acquisti giusti quest'anno ci farà divertire anche in Coppa. E questo era Paolo, cui manderemo la maglietta di tutti i convocati. Caro Paolo, poi me la presta, mi ci fa fare un giro, che a me non la danno, l'ho chiesto già in tutte le maniere, però la maglietta, dicono no, sono per gli ascoltatori, numero limitato, limited edition, e non me la danno, poi mi farà fare un giro lei. Bene ragazzi, ci sentiamo domani con tutti i convocati, vediamo cosa combinano questa sera Ancelotti e Guardiola. Domani ovviamente c'è anche la Juventus contro il Benfica, una partita importantissima. Balotelli è... Che è Balotelli? Non lo sapremo mai. Grazie a Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ovviamente tutti convocati, 2 ore di sport insieme tutti i giorni alle 14. Ciao!